stazione. Sei arrivata per pranzo e abbiamo litigato. Tu vuoi gelato al limone? Ti ho preso il cioccolato. Poi tieni il muso per un paio d'ore. E non mi sembra strano. Tu con i tuoi vizi di sempre. No che non cambi per niente. Si vede che non vuoi. Mi danno noia quei programmi TV. Minestra riscaldata a mangiare tu. Le sigarette rosse e quelle blu. Non voglio dire più niente. Non voglio fare più niente. È solo che la mattina sei bella veramente. Quando ti metti gli occhiali e vedi tutto. Mi piace un sacco. Non voglio dire più niente. Non voglio fare più niente. È solo che la mattina. Sei bella veramente. Quando ti metti gli occhiali e vedi tutto. Mi piace un sacco. Io ti volevo a colazione. Poi dormito sul fianco e non ti sei svegliata. Io ti ho aspettata per ore. Hai fatto una frittata. E non aveva proprio un buon sapore. Però me l'aspettavo. Arrabbiarsi non serve, tanto non cambi per niente. Si vede che non vuoi. Mi danno noia quei programmi TV. Minestra riscaldata a mangiare tu. Le sigarette rosse e quelle blu. Non voglio dire più niente. Non voglio fare più niente. È solo che la mattina sei bella. Sei bella veramente quando ti metti gli occhiali e vedi tutto.